Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti, benvenuti alle nostre frequenze. Questa è Blue Time Live nella programmazione serale appunto di Blu Radio Veneto. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi con me conduce questa trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Maurizio, devo dire che ti trovi in forma nonostante tutti i bagordi pasquali che ti hanno portato a festeggiare la Pasqua, la Pasquetta e quant'altro si voglia di mezzo, però ti vedo in gran forma. Bene, ti ringrazio. Segno che anche in questo fine settimana hai ascoltato dell'ottima musica e ci siamo preparati per affrontare quella che è la settimana anche dei live che si susseguiranno appunto dal 2 di aprile, quindi da questa sera, fino a mercoledì e poi ancora giovedì. Allora, Maurizio, abbiamo il piacere di rincontrare chi ci era venuto a trovare nel gennaio dell'anno scorso e sulle tracce della Volpe si intitolava così il suo lavoro, ci ha portato di nuovo qui con noi all'interno di Blue Time Live Frey, e ringraziamo per essere qua. Grazie Frey, e grazie, benvenuto. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora, pimpante come non mai Frey, pimpante come sempre. Frey assolutamente, assolutamente pimpante, ci aveva regalato quel bel disco sulle tracce della Volpe, ambientato in un mondo assolutamente terrestre. Adesso Frey cerca di spiccare il volo, non sappiamo quanto alto, glielo chiederemo questa sera. Ci presenta un altro bel disco formato da 10 tracce e con un titolo davvero particolare che ricorda l'infinito ma anche il finito. Allora, il titolo del suo nuovo lavoro si intitola 2013 Odissea nello spiazzo. Allora, eravamo tutti un po' molto spiazzati perché continuavamo a leggere e a scrivere Odissea nello spazio, perché eravamo appunto abituati forse troppo a leggere questo tipo di come dire, di messaggio abbinato sempre comunque a una data, quindi era, a quel tempo era il 2001 Odissea nello spazio. Adesso l'abbiamo passata, siamo ben oltre il 2001 e questa volta appunto si fa vivo Frey con questo titolo così, così importante e così no. Com'è nato il titolo? Davvero, davvero curioso l'esperimento. Allora, il titolo è nato ancora prima che nascesse il disco. Ah. E quindi è stato un po'... c'era ovviamente già questa idea di scrivere delle canzoni che avessero un po' come specchio e come luogo dove poter cercare delle metafore, l'universo. Un po' per tutti i documentari che avevo visto nelle mie notti insonni durante l'anno. E tu hai visto molti documentari. Ho visto molti documentari, sì, proprio, lunghe notti insonni. Esatto, proprio diciamo nel cazzeggio più totale. Diciamo. Sì, esattamente. Sì. E poi comunque le ispirazioni vengono proprio fuori quando c'è il rilassamento più totale, dove appunto non si sa cosa fare e in quel momento là nasce un qualcosa che poi nel tuo caso si trasforma in canzone che poi diventerà musica. Esatto, esattamente. E poi dopo il titolo è venuto fuori un po' all'inizio per giocare con le parole, però c'era anche diciamo una serie di significati che mi piacevano. Innanzitutto una data che rappresentasse il presente. Quindi quest'anno praticamente. Sì, quindi 2013, mentre appunto negli anni 60, negli anni 70 si tendeva appunto a fantasticare. Sì, 30 anni dopo. 30 anni sì, dopo, sì. Quello che sarebbe potuto succedere. Quindi è un po' un modo per cercare di descrivere le cose che ci sono adesso, non, né quelle che ci sono state prima, né quelle che si suppone o uno può pensare appunto che ci saranno poi. Quindi cercare di descrivere il più possibile un presente. Appunto quest'anno qui, quindi 2013. Odissea nello spiazzo, Odissea perché è una piccola odissea di questo personaggio, comunque, che sono in parte io, in parte anche quelli che ascoltano. quindi quello che vive nella sua quotidianità, con questa, diciamo, anche con questo confrontarsi un po' con quello che pensavano che ci fosse stato ora, che invece non c'è. L'uomo, io penso che, come poi anche Kubrick nel suo diceva. Lo lasciava appunto sì. liberamente interpretare allo spettatore, però era abbastanza chiaro che l'uomo appunto nello spazio non aveva tanta ragione di esistere. E quindi nello spiazzo è un po' più contenuto. Sì, oltre che sì, più contenuto. In questo spiazzo c'è un po' di una luna, un po' di nostalgia. Nel guardare appunto l'universo, nel guardare quindi sia il proprio futuro, ma nel guardare anche quello che c'è e che puoi solo guardare, che non puoi avere in qualche modo. E quindi appunto lo spazio e tutto quello che c'è sopra di noi. E a me mi capita spesso una cosa quando torno a casa di notte, ma da tanto tempo, mi capita quasi sempre che torno a casa pieno di tutto quello che ho vissuto nella giornata, appunto, da scappo da casa tua a tutte le manie che ho tutti i giorni e a magari i documentari che ho visto anche attraverso l'iPhone in mezz'ora di pausa che avevo e tutti i lavori che faccio, tutte le cose che riguardano la giornata. Arrivi a casa e è buio e stai per aprire la porta e se magari è stata una bella giornata e non ci sono le nuvole, guardi su e vedi questa roba gigante che ti sovrasta. E per 3 secondi, che poi dopo passi, apri la porta e entri dentro perché sei stanco, perché comunque c'hai tutte le tue cose da fare, però per 3 secondi ti poni una domanda che è di una grandezza enorme e te la poni per solo 3 secondi, proprio quei 3 secondi ti rapisce completamente. E penso che sono le domande appunto che l'uomo si fa da quando ha cominciato a pensare. A pensare, sì. E appunto che guardi e dici, cioè, cos'è questa roba? Cioè, chi siamo, che cos'è tutto ciò? Quindi di fronte a questo ci sentiamo, diciamo, delle formiche in uno spiazzo infinito per quanto riguarda la formica, ma noi miriamo comunque a vedere cosa c'è nello spazio. Ci interessa molto, ma a volte, da buoni uomini, non arriviamo al di là del nostro naso, in certe situazioni. Allora, come si diceva prima ai nostri ascoltatori, Frey è venuto a presentarci questo nuovo lavoro, si intitola Odissea nello spiazzo, e noi cominciamo subito con l'ascolto del primo pezzo, tanto per dirvi com'è formato questo CD così spiazzo, ecco, diciamo così, proprio con la canzone che dà il titolo all'album, quindi 2013, Odissea nello spiazzo, qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live con Frey. Resti seduto ad ascoltare questa malinconia di mezza sera, le porte delle case chiuse a chiave, la luna mezza gialla e mezza nera, nel taglio della scia di un aeroplano, vedi i tuoi pensieri evaporare e il sole scivolare piano dietro una nuvola. E come ritornare a casa, come abbandonare tutto qui, se non c'è nessuno che ti chiama, se ancora non è ora di cena. Lo spiazzo del quartiere non è niente di speciale, ma c'è abbastanza spazio per immaginare. E starò qui ad osservare, a cercare nel cielo qualche segnale. Resterò ad aspettare le stelle, ad aspettare le stelle, ad aspettarle. E resti seduto ad osservare questa sfumatura di colore, il tempo di cercare due parole, e il sole già precipita nel mare, sul bordo del confine della notte, Marte sta per apparire, ed io mi sento come dentro una favola. Pensare, che pensavo sempre, che me ne fossi andato via, forse in un paese lontano o in un pianeta vicino. Ora che non ci penso e il cielo mi commuove, ascolto il dolce fischio di questa motonave e starò qui ad osservare quanto è grande il cielo, ci rimango male. Resterò a ricontar le stelle, a ricontar le stelle, a ricontarle. Gravity is happening in the physics of a javelin, time travel space machine in the 60s meets grappling, trouble with the premise, a scientific dream. Pop the woody, douse my girl in green cream. Life is chaos, not order to win. A loose version of time will slip your bliss. Wake your files, my heart that plugged in. My arithmetic is sucking nipples and sin. My baby dropped trow in the middle of the block, in the shadow of a street lamp. She called me Spock. Original thought, presumed my brain. There is no sense it's trying to control this pain. Qui a fantasticare, a cercare nel cielo qualche segnale. Resterò a ricontar le stelle, a ricontar le stelle, a ricontarle. Blu Radio Veneto. Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, siate sempre benvenuti. Le 21:14 minuti primi, Blue Time Live già iniziato. Abbiamo ascoltato questo primo pezzo, a proporcelo è Frey, che è anche venuto a trovarci all'interno della nostra programmazione solare per farci ascoltare anche della buona musica anche in versione acustica, e qui assieme alla sua chitarra abbiamo ascoltato questo primo pezzo 2013, Odissea nello spiazzo. Abbiamo già dato un breve cappello a quello che avviene all'interno di questo disco, quindi come dicevi tu un rientro a casa e una meditazione guardando questo cielo che alla sera, soprattutto in una fase di non inquinamento, diciamo, di luci, può dare grandi messaggi di quello sì. Che può essere l'aldilà delle stelle, dei pianeti, e può trasmettere anche assolutamente un messaggio di pace, perlomeno quello che stava cercando il personaggio, che poi alla fine sei tu, Frey. Beh, sì, perché, sì, sì, certo. Assolutamente. E tra altre cose, curiosità delle curiosità, è che proprio questo pezzo, Non saranno così gli altri, vede anche protagonisti delle persone che cantano, rappano in inglese. Ci sta molto bene, si sposa molto bene la cosa. Sì, ma c'è un'odissea, adesso la racconta Frey per questo piccola, motivo. Esatto, c'è un piccolo aneddoto anche su questo, perché non era una cosa... è stata una cosa abbastanza casuale, nel senso che dove abbiamo registrato quel disco, che è a Chiesuola, nella Casa del Vento si chiama, una casa dove abitano diversi artisti, sì, certo. Tra cui appunto Enzo Cimino, che è appunto quello che ha registrato il disco. E niente, c'era questa parte vuota dove stavamo pensando cosa farci. Io non avevo scritto niente, mi immaginavo qualcosa di appunto una parte rappata così. E ci siamo trovati a cena verso mezzanotte con due ospiti, e questi erano i Taliban, che avevano appena finito di suonare nel locale, e sono due ragazzi di New York, e gli abbiamo chiesto appunto di partecipare al volo, di scrivere. Gli ho spiegato in due parole un attimo quello che era il senso del disco, e hanno scritto appunto questo testo, che è anche abbastanza inquietante, perché appunto è stato in grado di tradurlo così al volo, perché è un inglese abbastanza stretto e c'è molto gergo newyorkese. E ecco, quello non questo io non lo traduco. Non siamo andati oltre, non lo traduciamo. Se qualcuno vorrà avere così il piacere di farlo, può scaricarsi il testo su internet, sul sito dove ci sono tutti appunto i testi scaricabili. Benissimo, quindi ricordiamo anche in principio quello che è il tuo sito internet www.freifreifrei.com. Esatto. Quindi, ecco, sembra un po' anche la tedesca, no? Libero, libero, libero, Frei, Frei, Frei. In realtà è il tuo nome, Frei. Sì, sì, è il mio nome di battesimo. Per cui, ecco, Frei Rossi, Rossi ricordiamo, cognome, per chi ci vuole anche andare a chiedere l'amicizia su Facebook, esatto, rispondi a Frei Rossi. Sì, c'è Frei Rossi che è il profilo, c'è Frei che è la pagina artista. Dobbiamo sottolineare, Flavio, che Frei ha una caratteristica di fare sempre dei pezzi, almeno questo qua, la title track si chiama così, no? Molto accattivante, entra subito in circolo. E questa è una tua caratteristica, non da poco, mica facile fare dei pezzi che entrano immediatamente in circolo. L'idea, l'arrangiamento, c'è sempre stato Dario che ha messo le mani a questo arrangiamento, è tutto l'insieme del disco, vero Fred? Sì, sì, io solitamente scrivo la canzone da solo, chitarra e voce, quindi testo... Dario è il batterista, No, Dario è il chitarrista arrangiatore, sì. Era venuto qua... È venuto l'altra volta? Sì, era venuto l'anno scorso. Esattamente, sì, sì, esatto. Ci ricordiamo. Ti ha dato una mano al 100%. Sì, io quando scrivo il pezzo chitarra e voce, poi ci troviamo insieme, facciamo insieme una preproduzione, poi lascio a lui in mano appunto tutto il lavoro di arrangiamento e di registrazione, anche poi delle chitarre, pianoforti. E quest'anno, a differenza dell'anno scorso, abbiamo lavorato da registrazione in quattro con un altro chitarrista che ha fatto tutte le chitarre soliste, che è Michele Barbagli, e che è anche appunto con me dal vivo, e Enzo Cimino, che oltre ad aver fatto la batteria anche si è occupato appunto della fonica, delle riprese e di tutto quello che è insomma il lavoro di registrazione. Quindi un lavoro un pochettino più corposo rispetto al lavoro precedente. È un lavoro diverso perché prima abbiamo lavorato, diciamo, con come si lavora nelle grosse produzioni. Ho capito. Un produttore artistico e un arrangiatore. Quindi io arrivavo con i pezzi chitarra e voce finiti e loro arrangiavano e producevano. Quest'anno abbiamo fatto più un lavoro da band. Quindi più un lavoro dove, diciamo, non c'era una figura del produttore artistico, ma l'abbiamo fatta noi tutti insieme, la produzione artistica. Perfetto. Benissimo. Poi c'è un'altra persona che non voglio dimenticarmi, che è quello che ha fatto il mix, che è Andrea Rovacchi del Bunker Studio di Rubiera. Quindi una volta finito tutte le riprese e l'editing, abbiamo messo in mano a lui appunto il lavoro di mixaggio. E poi il master invece l'abbiamo fatto in Canada quest'anno. L'avete mandato in Canada praticamente. L'abbiamo mandato in Canada al Silent Studio, da Bruno Green. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che Frei è venuto qui in radio, già la seconda volta che abbiamo l'onore di ospitarlo, per questo suo nuovo lavoro che si intitola 2013 Odissea nello spiazzo. E visto che Frei è qui anche con la sua chitarra, direi di continuare con l'ascolto di un qualcosa di acustico, live qui dai nostri studi. Cosa possiamo ascoltare, Frei? Allora, io direi di fare... di non seguire la scaletta del disco, ma di fare un altro brano che è molto che si è giocato, devo svelare il suo segreto, si è giocato il titolo del disco insieme a 2013, che è L'universo da qui. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo con l'interno di Blu Radio Veneto nella programmazione di Blu Time Live. Frei. Guardami come cammino di primo mattino e come vado forte in bicicletta, azzicazza che scappo via. Guardami come cazzeggio il pomeriggio e quante cose imparo sullo spazio con i programmi dell'iPhone. Sai che da una stella che vediamo ci sono 10 anni luce almeno. Hai un'idea di quanto è grande la galassia dove siamo? Amore mio, stanotte sai, scaricheremo un videoclip per guardare l'universo da qui. Ma com'è l'universo da qui? Rimanere un'ora a bocca aperta, c'è un telescopio spaziale che ci fa vedere che Andromeda ci supera in grandezza e ha molte stelle più di noi. e ascolto mentre taglio le unghie la teoria delle stringhe. E spio come un wire le supernove, stelle nane di lassù. Ma sai, qualcuno ha detto che vicino esiste un mondo parallelo, che per andarci basta entrare dentro il buco di un lombrico. Amore mio, se ti dicessi che io sto già bene così, a guardar l'universo da qui. Ma com'è l'universo da qui? E rimanere un'ora a bocca aperta, e so che l'universo è punteggiato di miliardi di galassie in espansione da una vita circa 13 miliardi di anni luce. Mentre provo a immaginare, mi si colora il cuore a guardar l'universo da qui. Ma com'è l'universo da qui? Tutta la notte a culi nudi e bocca aperta. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Voglio dire, nonostante averla ascoltata per diverse volte questa canzone in preparazione appunto all'accoglienza a Frey, dimentichiamo sempre che c'è questa, come dire, brusco finale che parla di, e che dice proprio stare tutta la notte a culi nudi e bocca aperta. Veramente fantastico. È un po' quella che te la stai ridendo, Frey? È un po' come la continuazione di quella che è stata la canzone che abbiamo ascoltato prima da disco. Quindi giustamente tu dicevi, vabbè, si era un po' indecisi a qual era il titolo che doveva nascere assieme a questo disco. E comunque questa, l'universo da qui, è la continuazione dell'Odissea nello spiazzo. Sì. Basta guardare un po' più in alto, sì, no? Perché prima si guardava nel proprio orizzonte, quindi forse anche in mezzo tra gli alberi, tra i grattacieli, tra la formazione di quello che è il quartiere dove tu risiedi, e bastava guardare un po' più in alto e cominciare a chiedersi, magari anche in compagnia di qualcuno, cosa c'è nell'infinito. Quindi magari non il discorso di Pumba e Timon del Re Leone, non so se li ricordi, che sono distesi che guardano l'universo, sì, però sì, un sì, qualcosa che sì, va comunque oltre. Sì, sì, sì. L'hai fatto musicalmente un po' più rallentato, chiaramente non si poteva fare altrimenti in questo momento. Questo sì, pezzo. Io ho fatto una versione appunto così. Molto più acustica. Un po' da spiaggia. Un po' da spiaggia, sì. Adesso va bene proprio quel clima giusto. diciamo che è un disco che si sta preparando proprio per l'estate. Per sì, l'estate. Sì, sì. Esattamente. Visto che poi anche Frey arriva da certe parti che sono famose, voglio dire, per quello che è l'esodo estivo, molti italiani conoscono la riviera romagnola, viene sempre per il sole, il mare, il divertimento, la musica, poi perché c'è tanta musica lì in riviera, soprattutto si parte da giugno e fino a ottobre non ce n'è per nessuno, no? Quindi sì. Sì, c'è più che musica, c'è molta festa. C'è molta festa, sì. Perché poi di in estate nella Riviera Adriatica di locali che fanno musica indipendente non ce ne sono poi così tanti, ce ne sono pochi in proporzione, certo. E si torna sempre lì sullo stesso argomento della serie, quando uno propone della musica propria che non è subito così prendibile dal primo orecchio, diciamo, allora in quel caso là subito i gestori non si sentono, come dire, di scommettere su quella data accurata situazione. Esatto, infatti c'è una differenza enorme dai vari tipi di locali. Ci sono proprio locali dove io, come tanti altri come me, appunto, andiamo a suonare, che poi alla fine sono sempre quelle, sempre quel circuito lì, perché non sono così tanti. E lì c'è da, appunto, ringraziare, ecco, i gestori che si sbilanciano e cercano, appunto, di rischiare anche loro facendoci suonare, perché poi è ovvio che magari nella Riviera Adriatica chi va lì per divertirsi, va per divertirsi, ma anche può ascoltare. Sì, però è molto più facile per un gestore far divertire il pubblico in un'altra maniera, piuttosto che proporre, appunto, della musica indipendente, originale. Ma a te non è andata male, hai fatto parecchi concerti. Insomma. No, a me è andata bene. Per me, sì, sì. Sempre grazie, appunto, ai gestori di questi locali che ci fanno suonare. Esattamente. Questo è positivo. Però sì, sì, adesso siamo appunto in tour anche in questo periodo. Con disco nuovo. Abbiamo già fatto una decina di date tra febbraio e marzo. Mm-hmm. Allora la prossima è sabato a Bertinoro al teatro. Poi il 20 al Geco di San Benedetto del Tronto e il 27 all'Ex Macello di Gambettola. E l'avere avuto tantissime positive recensioni anche su questo disco conta? Serve secondo te? Secondo me sì. Ma per la mia autostima sì. Ho capito. Infatti stavo cominciando, ne parlavo con la mia ragazza quest'inverno, dicevo, ma cioè, forse per me fare dischi sta diventando una cosa terapeutica, nel senso che alla fine li fai, arrivano delle belle recensioni. Ma tutte positive, quindi, mica negative. Per carità, anche nel secondo disco, chiaramente. Rockerilla, Jam, sì. Quindi giornali anche di un certo peso. Sì, sì. Poi dopo ovviamente non è che... sì, influiscono, però fino a un certo punto. Ma fanno piacere, quello sì. Quello più che altro ti fa venire voglia di farne un altro. Appunto. Ecco, cioè, assolutamente. E quindi sulle tracce della Volpe, il precedente, non ho parlato così bene che poi sei uscito con questo. Mi sono messo subito al lavoro. Sì, tra altre cose, tu nella tua, diciamo, autobiografia, nel come descriverti, dicevi che molte volte le etichette, le produzioni non servono a niente, anzi bisogna investire su se stessi, non solamente sul credo ma anche sul portafoglio in questo caso, e si finisce per essere, appunto, soddisfatti, come dici tu, per i premi dati dalla critica, le stelline che ti meriti nelle varie recensioni, però poi rimane sempre quel nodo cruciale il disco si venderà, in quel caso lì. Guarda, siamo in un periodo in cui è appena venuto fuori Spotify, quindi c'è un altro punto interrogativo in più sul dire se i dischi si venderanno ancora, se si venderanno con gli stessi numeri di prima. No, è ovvio che la risposta è no, quindi non lo so, io non so proprio cosa rispondere, perché ne parlavo anche oggi con dei discografici che girano intorno a te, i discografici. Sì, sì, ci stiamo confrontando, stiamo parlando appunto di fare delle cose e... Però è un periodo molto, molto, molto, molto difficile per le case discografiche. Ma tu hai detto una frase lapidaria, io ho capito perché le etichette non vendono più. Adesso lo puoi dire anche qua, al pubblico. L'hai detto. Perché quindi... io mi sono messo in gioco come magari ci sono messi in gioco loro. Certo. Ho speso dei soldi, mi sono totalmente autoprodotto, il che vuol dire pagare lo studio, pagare un ufficio stampa, insomma. E quindi pagare tutto, insomma. Pagare tutto, sì. E ti rendi conto che ovviamente il lancio di un artista... ha un costo a fondo perduto fondamentalmente in questo periodo. Poi chi lo fa come me, che non sono un discografico, quindi non ho neanche magari quella capacità imprenditoriale che potrebbe avere, che ne so, un manager della Warner. No, Rudy Zerbi, no, quello no. Ah, non so neanche chi sia, guarda. Non importa, non importa. Guardi troppa televisione, Maurizio. Sì. Però... Fai bene la radio, ma guardi troppa televisione. Dimmi, scusami, era una battuta. Lui era il famoso manager della Sony, poi per motivi diversi la Sony gli ha fatto fare un giro, hai capito? Ah, non lo conosco. Va bene, non importa. E quindi no, appunto, mi sono toccato appunto con mano quello che è il mondo della discografia, insomma, che attraversa un periodo molto difficile, molto difficile. E appunto non è soltanto, cioè, magari spesso noi artisti ci mettiamo a criticare, no, le etichette che non pagano, che non investono. In realtà, se provi te, appunto, di persona a mettere di tasca tua, insomma, a investire su un artista che sei te, sì, e ti rendi conto, appunto, che non è non sono neanche da biasimare tanto, quindi, puoi capire il perché. Posso capire perfettamente. Però loro lo fanno di lavoro, loro cercano sempre nuovi artisti, sempre nuovi argomenti, sono sempre alla continua ricerca della musica. Sì, le etichette piccole indipendenti sì, infatti guarda, tanto di cappello, ci sono tante piccole realtà veramente piccole che producono due artisti, tre artisti ogni due anni, ma neanche, che però li seguono molto bene e poi gli artisti sono bravi, quindi lavorano molto bene. Ovviamente le etichette grosse non cercano gli artisti, cercano i soldi. Sì. Il catalogo vecchio, esatto, che cercano loro. In questo periodo i soldi li fa la televisione, li fanno, certo, appunto i programmi televisivi, che appunto si occupano di televisione e non di musica. Io credo che in questo periodo si stiano confondendo, cioè il pubblico sta confondendo un po' le due cose, il prodotto televisivo con la musica, perché la televisione sta utilizzando la musica, ma è un'altra cosa, ecco. È vero, hai ragione. E tutte le etichette stanno investendo appunto sulla televisione. I grandi fratelli musicali che rendono quel che rendono, poi, assolutamente. E quindi non danno giustizia a quella che è la musica italiana, ma tutto quello che è il sottobosco musicale importante. È quello, perché comunque fanno delle belle cose, cioè, hai sentito delle belle cose uscire, che ovviamente qui si parla di produttori che scrivono e artisti che cantano per la televisione. Sì. Sono uscite fuori delle cose molto belle, soprattutto a livello di voce, perché poi scelgono, ecco. Beh, Mengoni è uscito da quelli. Sì, esatto. Ma lui, a differenza di tanti altri, anche se scriveva i pezzi. Sì, appunto, a volte sono anche artisti che... Sì, e poi comunque Mengoni è premiata anche la sua maniera di cantare, assolutamente fuori da quelli che possono essere gli schemi melodici, diciamo, tradizionali, per cui lui, diciamo, è un artista che con la giovane età ha anche saputo osare, diciamo. Allora, parliamo ancora della musica di Frey. Il nuovo lavoro si intitola 2013 Odissea nello spiazzo, e questa volta andiamo ad ascoltarci un brano da disco, un brano dedicato a una donna, a quanto pare. Si intitola Angela, e poi... È dedicato a una donna, sì. È dedicato anche alle bugie, ma le bugie quelle positive, quelle che in realtà fanno diventare una cosa che potrebbe essere monotona, la fanno diventare divertente. Bene. Quindi quando si raccontano gli aneddoti, le si condiscono magari con baci che non ci sono stati. Ecco, appunto. Vabbè, quindi si ritorna tutti un po' quattordicenni. Esatto. Ok, allora ci ascoltiamo Angela, lui è Frey. Angela, Angela, oh Angela, Angela, presi per sbaglio la strada per Genova, con la valigia piena di voglia di andare via, il sole dal vetro mi bruciava gli occhi, con i miei occhiali ne ero fumé. Ora lo racconto agli amici, è andata via senza ringraziare né chiedere chi sono io, sbattendo la porta e schiacciando un addio. Quando racconto agli amici che poi la baciai, Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Angela. Già Frey ne ha dato una breve, come dire, introduzione di quella che è la storia di questa ragazza, che poi è un'invenzione pura di una persona che ha fatto un giro da sola e poi si è inventato nei confronti degli amici, di aver incontrato invece una persona che si chiama Angela e poi non si ricorda più niente di preciso, di dov'era, cosa faceva esattamente. Comunque era così, un sogno d'amore che si voleva comunque realizzare in quel frangente. Frey, quante volte è successo? Un sogno, sì, è uno di quei sogni. Cosa succede qua? Okay. No, cioè, il microfono che... Adesso riprende, adesso riprende. Abbi fede. C'era addormentato. Sì. Un sogno abbastanza disperato per certi versi e abbastanza comprensibile per altri, ecco. Musicalmente qualcuno ha scritto, adesso vediamo se anche Flavio è d'accordo, sì, che Angela è l'unione tra Celentano e Diaframma. Tu mi hai detto chi sono i Diaframma, adesso in pochi secondi te lo spiego. Soprattutto per i testi, Fiumani ha sempre scritto, Fiumani è il leader incontrastato da sempre dei Diaframma, sempre dei testi molto particolari, e questo testo, secondo alcuni critici, poteva ricordare certi testi dei Diaframma. Sì, l'avevo letto nella recensione... Celentano no, perché Celentano è la musicalità più che altro, okay, secondo me. Tu sei d'accordo su Celentano, che tu conosci meglio di Diaframma? Oddio, sinceramente non mi rivedo, cioè non rivedo la canzone. I Diaframma li conosco praticamente solo di nome, certo. Non ho mai ascoltati. E Celentano ovviamente sì, però non lo so. Io non ce li vedo. Neanche a però me personalmente. Però mi fido più magari di chi ce li vede che di me. Che è già positivo, citare Diaframma non è mica semplice, vuol dire sei di alta qualità. Ah, okay, di alta qualità. Assolutamente. E poi ricordiamo Diaframma, un gruppo musicale che è nato in quel di Firenze, proprio in Toscani puri. In Toscana, e si sono anche contraddistinti per il loro genere un po' punk in principio, diciamo, per poi arrivare giustamente alla musica d'autore. Loro sono ancora in attività, tra le altre cose, sempre comunque musica per addetti ai lavori, conosciuti da chi se ne intende, come Maurizio naturalmente. Ma anche te, anche te li conosci Diaframma? Sì, molto meno, però allora torniamo a parlare di Frey, di questo suo ultimo lavoro, torniamo anche a dire dove poter attingere maggiori informazioni sulla musica di Frey, quindi già un invito ad andare sul sito internet che si chiama www.freyfreyfrey.com e da lì naturalmente navigare sulle varie pagine dove si troveranno anche i contenuti dei testi e la possibilità anche di scaricare in maniera digitale su Bandcamp il disco. Sì. Per chi invece volesse avere il disco così come ce l'abbiamo noi, nella bella confezione, non ho distribuito perché ho deciso di non distribuirlo. Tanto ci sono quattro. Cioè, fa tutto a te, bisogna dirlo questo. Sì, no, ma sul tasto della Volpe era distribuito da Audio Globe. Sì, esatto. Poi mi sono reso conto che ci sono 5 negozi di musica in tutta Italia, quindi ce ne sono veramente pochi, ma veramente, veramente pochi. Per cui va in catalogo, ma non prendono neanche quelli del negozio, di conseguenza li vendo dal vivo. In concerto. E per posta, se uno me lo chiede, lo spedisco col pagamento tramite PayPal. Insomma, sì, assolutamente. E sono molte volte adesso si vedono i negozi di dischi che sono praticamente senza utenti, o perlomeno chi compra il disco va sul sicuro o sulle ultime hit, così, perché non ha gusti precisi, diciamo, oppure si tuffa nel passato, perché ci sono sempre grandi esperimenti, sempre dettati dalle major nella ristampa dei prodotti, quelli più importanti, diciamo, degli anni 70 e degli anni 80, e pochi, appunto, titolari di negozi di musica rischiano, come fanno anche i titolari dei vari bar, ristoranti o altri locali pubblici, nel far sentire la musica nuova, nostro malgrado. Noi siamo qua a presentare invece quella che è la musica vera, la musica di questo, come si diceva prima, sottobosco musicale italiano, e ce ne sono tante di cose belle da ascoltare. E in questo caso, appunto, stiamo approfondendo con Frey 2013 l'Odissea nello spiazzo. Allora, volendoci fermare ancora nello spiazzo, cosa possiamo ascoltare, Frey, con la tua chitarra? Cosa ci allora, tra l'universo visto appunto attraverso YouTube o l'iPhone e appunto un'autostoppista fantomatica, ci sono anche delle domeniche in cui andiamo a cena a casa dei genitori della nostra ragazza. I famosi suoceri o quasi. I famosi, esatto. Sì. E dove ci troviamo in situazioni abbastanza... posso dire, abbastanza a volte appunto imbarazzanti. Comunque allora, lasciamo la canzone, allora, il racconto di questa. Sentiamola, benissimo, vicenda. Frey qui a Blu Radio Veneto. Scappo da casa tua. Benissimo. Siamo a pranzo a casa dei tuoi e non lasciarmi mai, stai seduta vicino a me, vedrai, vedrai che staremo un'ora soltanto la domenica. È un sogno che non finisce mai. Chissà tuo padre poi cosa penserà di me, e le domande mi mettono in crisi, lo sai che se balbetto poi no, io scappo via, scappo via da casa tua, perché non voglio restare più, io non voglio restare più, io non posso restare più, no, io non voglio restare più, io non voglio restare più, io non posso restare più. E negli occhi miei un sogno che non si avverava mai, lasagne della nonna, chissà quante ne mangerei, ma per educazione ne prendo un minuscolo assaggio. Sono le quattro ormai, ho una fame che mi porta via, Non so quali malintesi, non so come uscirne fuori. Se tua sorella mi sta toccando con il piede sotto il tavolo, io scappo via, scappo via da casa tua, perché non voglio restare più, io non voglio restare più, io non posso restare più, no, io non voglio restare più, io non posso restare più, io non voglio restare più. E io scappo via da casa tua, la prossima volta non tornerò, quando mi dirai che stiamo solo un'ora. Restare più, io non posso restare più, io non voglio restare più, no, io non voglio restare più, io non posso restare più, io non voglio restare più. Oh, Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E in quanti si sono rispecchiati un po' su quella che è la canzone di Frey, si intitola Scappo da casa tua, quindi una visione di quello che è il fidanzato in una delle prime volte che viene a contatto con i suoceri, che naturalmente vogliono sapere qualcosa di più da questo personaggio che si presenta a tavola vicino alla figlia, e invece lui che non vuole sbottonarsi più di tanto, forse per timore, forse, ma non so per quali miriadi di idee possano passare per la testa, e chiede anzi chiede proprio alla ragazza di stare sempre vicino a lui, di non abbandonarla mai. E poi la parte finale con questa chitarra che va via un po' alla volta, sembrano quasi i passi del proprio animo che vogliono che vogliono assolutamente abbandonare il desk, magari anche sotto la tavola, a sgattaiolare come potrebbe fare un gattino in quel caso. Allora Frey, l'hai vissuta tante volte, l'hai fatta ascoltare i suoceri soprattutto questa canzone? Sì, sì, gli è piaciuta tantissimo, anzi mi hanno preparato le lasagne appunto la domenica dopo, vedi. Che gli ho portato il disco stampato. E quindi vuol dire che ha fatto un certo effetto, e soprattutto anche perché io posso pensare, il suocero a quel tempo, magari 20 anni prima, aveva vissuto a sua volta le stesse emozioni, solo che tu hai avuto, diciamo, il coraggio, e anche ti sei divertito nel fare questo, nel scriverle e nel renderle assolutamente pubbliche e dinamiche. L'hai reso con quella voce graffiante che avevi in questo momento? Perché rendendola così ha un certo, non so che, un certo impatto, Frey, secondo me. Sì, assolutamente. un po' la Rino Gaetano. Sì, leggermente. Sì. Beh, anche l'andamento iniziale dell'accordo che hai fatto con la chitarra. Sì. Un po' di blues ce l'avevi. Sì. Poi chiaramente il pezzo si è allargato, ma un inizio di blues non fa mai male alla salute, secondo me, fa sempre bene. Ma allora torniamo un po' indietro nel tempo, ancora prima di Sulle tracce della volpe. Frey era protagonista, assieme anche ad altri, di un progetto musicale itinerante. Questi erano i carretti musicali, si chiamavano così. E quella cosa, quando me la raccontasti ancora l'anno scorso, mi aveva terribilmente incuriosito, queste manifestazioni, diciamo, itineranti. Sì, esistono ancora. Ah, esistono ancora. Anzi, stanno raggiungendo in questo periodo il momento di maggior splendore, finalmente, dopo anni anche lì di lavoro. Di lavoro, sì. E i carretti musicali sono un progetto di Idol Associazione, e io sono il cantante, siamo appunto in cinque, c'è sempre anche Dario Giovannini e altri musicisti che lavorano con noi, e quest'anno stiamo iniziando a, diciamo, muoverci per arrivare ai festival europei. Quindi facciamo i festival di Linz, Bratislava, Budapest. Quindi sono sempre festival tipo Baskers in questo sono caso? Sono sempre festival. Sì, prevalentemente sì. Eravamo partiti facendo appunto festival di teatro di ricerca, inserendo appunto uno spettacolo che era abbastanza particolare, perché ci muoviamo con dei carretti di legno sui quali sono gli amplificatori alimentati con le batterie dei camion. Abbiamo una versione anche acustica con i megafoni. Ed è un progetto molto interessante, perché comunque per il momento non abbiamo diciamo, il progetto di fare un disco con pezzi originali, ci stiamo lavorando, però fino adesso abbiamo sempre preferito lavorare con delle cover, stravolgendole, dandogli comunque un suono e un'identità totalmente nuova, che per certi versi era più interessante che magari scrivere dei pezzi ex novo, praticamente. Ex novo, certo. Appunto, che magari non... per quel gruppo lì non c'era tutta questa esigenza, ecco. Ricordiamo anche, c'è un sito internet per approfondire anche qualcosa riguardo i carretti musicali. Questo sito risponde a www.aidoruassociazione.com, e quindi sì, c'è proprio anche una pagina proprio riservata ai carretti musicali e a questa loro modo di portare in giro la musica per strada. E poi c'è anche il muro delle fiabe, che è un'altra una cosa che va di pari passo con i carretti musicali. Praticamente credo sia, adesso sinceramente mi coglie un po' impreparato, perché l'associazione Aidoru produce diverse cose, quindi probabilmente è una delle produzioni dell'associazione, però non è insieme ai carretti non musicali. È assieme ai carretti musicali. Chiedo scusa, allora vedevo una serie di informazioni improvvise, volevo darle agli ascoltatori, quindi Aidoru associazione .com. Ma torniamo a bomba con l'ascolto di un altro pezzo di Frey, sempre tratto da Odissea nello spiazzo, questa volta un brano ancora da CD. In questo caso possiamo ascoltare questa canzone che si intitola Ho visto gli alieni. Intorno niente, io vi ho visti cadere giù dalle faceva schifo. Nessuno li vuole vedere, nessuno li vuole guardare, nessuno si vuole prendere cura, nessuno sa che hanno paura. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo, si intitola Ho visto gli alieni, fa parte dell'ultimo lavoro di Frey, si intitola 2013 Odissea nello spiazzo, ed è proprio di spiazzo anche in questo caso che si parla e non di spazio, perché quelli che sono gli alieni descritti nella canzone di Frey non sono senz'altro UFO, non sono marziani, non è gente o persone che vengono chissà da quale pianeta, ma è proprio gente che vive nel nostro pianeta e viene considerato proprio un alieno, proprio perché non fa parte della società, e in questo dai una descrizione di dove si trovano, dove si possono incontrare queste persone molte volte non incontrabili, ecco, in questo caso. Frey, una canzone molto, molto ritmata, un po' anche convulsa in certe situazioni, che però dà... ha un significato proprio di vicinanza, ma allo stesso tempo di lontananza da queste persone che ci sono vicine, che abitano con noi tutti i giorni. Sì, sì, sempre appunto una canzone che va, come vuol fare appunto tutto il disco, a cercare alcuni elementi che vengono spesso usati appunto nella fantascienza, li va a cercare non nello spazio, ma nello spiazzo di casa. Poi parlavamo con Frey del grande arrangiamento che ha fatto Dario Giovannini, che l'idea dell'arrangiamento ha fatto costruito in modo perfetto. Questo giustamente Flavio sottolineava, questo pezzo che è senza appigli, va avanti, scorre come fosse un fiume, senza nessuna barriera. Quindi anche perché avevamo notato proprio questa canzone che corre in certe situazioni, anticipa anche il tempo del cantato, proprio perché c'è sempre qualcosa da dire, da mettere davanti in continuazione questa storia infinita, perché la canzone dura 3 minuti, però in questi 3 minuti ci sarebbero mezz'ore da raccontare. Sì, si fa un po' una panoramica in questi 3 minuti. Diciamo che si fa un riassunto in questo caso di quello che succede. Comunque tocchi bene quella che è l'argomentazione appunto aliena che tu dici. Vogliamo ricordare, forse avevamo già detto in principio, quelli che sono le prossime tappe che ti vedono protagonista, qualche concerto che magari qualche nostro ascoltatore può venire a vedere se passa dalle tue parti, Frey? Allora, ci sono, sabato prossimo, questo sabato, a Bertinoro, al teatro di Bertinoro. Bertinoro dov'è? Provincia di Forlì, Cesena. Di Forlì, sì. Poi il 20 aprile, sabato se non sbaglio, al GECO, a San Benedetto del Tronto, e il 27 a Gambettola, sempre provincia di Forlì, Cesena, più vicino a Rimini, all'ex Macello, circolo 360. Che è un locale. Che è un locale, sì, una programmazione abbastanza... Bello tosto, interessante. Sì, molto bello, uno dei più bei locali che ci sono in zona, sì. Mm-hmm. Benissimo, poi ancora diciamo www.freyfreyfrey.com per saperne di più. Allora, sei stato anche ospite da altre radio come la nostra, che hanno voglia di far sentire la canzone, e tra altre cose anche XL di Repubblica ti ha ti ha regalato uno spazio, diciamo, importante, sì, per far conoscere la tua musica. Quindi, senza andare nelle riviste, quelle, diciamo, più tecniche, prima si parlava di Rockerilla piuttosto che di Jam, piuttosto che di Blue Up. Mucchio Selvaggio, altre cose. XL Repubblica è un giornale, diciamo, più aperto a chi conosce la musica, se non nell'approfondimento della stessa, e quindi hai avuto, diciamo, visibilità anche in quel frangente. Sì, è stato molto importante, perché comunque XL è una portata molto grossa, Repubblica, quindi collegato con Repubblica, quindi sì, vende moltissime copie. Sì, quindi. E tra le altre cose dava anche la possibilità di scaricare gratuitamente, in questo caso, quello che era uno dei tuoi pezzi che abbiamo ascoltato prima, L'universo da qui. A proposito, ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione la stiamo, oltre che conducendo in diretta, e si capisce, siamo qua, pieno dei nostri piccoli errori, e comunque è anche registrata e sarà poi messa all'interno dei nostri archivi sonori, per cui in quella che è la notizia riservata a Frey e la trasmissione di questa sera all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, al posto di ascolta la diretta, come è scritto in questo momento, ci sarà scritto scarica la trasmissione, così mettendo insieme la trasmissione e mettendo insieme il disco che vi accapparerete in questo periodo, potrete avere una visione completa di chi è Frey, di quella che è la sua musica, e anche appunto qualche traccia che abbiamo registrato questa sera nella versione live acustico. A proposito di live acustico, ancora un pezzo tratto da 2013, Odissea nello spiazzo. Questa volta ci fai ascoltare Le mie manie. Sì, c'ho un attimo un problema tecnico alla chitarra. Sentiamo. Staccare? Puoi staccare, sì, certo. Ok. Bene. E possiamo andare in diretta con i microfoni? Possiamo andare in diretta con i microfoni, certamente. Perfetto. Allora abbiamo, ecco come si capisce, proprio questo è il bello della diretta. Quindi abbiamo. Adesso proviamo, stiamo giocando con certe cosette per riuscire a far mandare la chitarra secondo per certe far andare la chitarra benissimo. Quindi la prova tecnica è finita, bastava infilare un paio di pile, un jack e un paio di pile. Non lo diciamo prima. Ma sono sempre le cose belle della va bene diretta. Va benissimo, okay. Allora proviamo. Bene, eccolo qua, il suono della chitarra di Frey, questa volta per farci ascoltare Le mie manie. Quando compro un gratta e vinci dico porca troia, se non vinco questa volta faccio basta e poi ne compro altri tre. E per risparmiare compro la roba scadente, poi si rompe, io mi incazzo, resto solo e preco contro di me. Quando c'ho la fissa che tutto fa male, mangio solo riso per un mese, poi sto male, poi mi chiedo perché. E chiedo informazioni a una persona che passa, e mentre spiega non ascolto niente, grazie a lei, grazie a te. Quanto mi costano le mie manie, quanto mi costano le mie manie, non lo so, ogni giorno ne ho quattro di più, io non lo so. Ogni giorno ne ho quattro di più. E quando prendo il treno ho la paranoia di aver sbagliato, poi mi chiedo 10 volte questo è il treno per Forlì. Alla mia ragazza dico che sarò pronto alle 10, tanto penso che alle 10 lei non sarà qui, invece è qui. Quando uno mi chiede una cosa che io non voglio fare, gli rispondo sempre sì sì sì, na na na na na, sì sì. E prima di ordinare la pizza ci penso 40 volte, poi alla fine prendo sempre quella pizza lì. Quanto mi costano le mie manie, quanto mi costano le mie manie, no, non lo so, ma ogni giorno ne ho quattro di più, io non lo so, ma ogni giorno ne ho quattro di più. Quando vedo che nell'auto la benzina sta finendo, penso ora mi fermo, poi non mi fermo mai. Se non guido con due pali, con la mente e con gli occhi salto sui fanali, catari frangenti del guardrail. Io negli autogrill non pago le bevande dentro il frigo, tanto poi non suona, quel che suona lo consumo lì. Io non mangio nei McDonald's perché è tutta merda, ma con un gelato solo panna, però solo quello sì. Quando un po' di sete aspetto che diventi volta, poi mi scolo una bottiglia in una volta e non respiro più. Quando non ho sonno cerco il libro più palloso, poi mi accorgo che è così palloso che non ce l'ho più. E quando esco dal cinese dico ma che schifo, non ci torno, poi ci torno e lo ridico e non finisce mai. E quando non mi fa incazzare penso se lo vedo gliene dico proprio tante, però tante, poi gli dico ciao, come va? Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E così, ascoltando la canzone di Frey, mi sono ricordato una cosa, che nonostante ci sia la spia della riserva, anche la mia automobile, rimando sempre il fatto di dover fare benzina, forse perché una fermata in più, soprattutto un tocco al portafoglio, a volte può anche far male, però d'altronde non ci si può fermare in mezzo alla strada. Abbiamo ascoltato tutte quelle che sono le manie, diciamo, non solamente di Frey, ma di tutta la gente, un po', come dire, a caccia di tutte quelle che sono le proprie problematiche, senza mai riuscire a sgusciarle tutte, anzi a volte anche perfezionando la mania, perfezionandola e quindi portando difetto al difetto, quindi, e ogni volta comunque c'è la consapevolezza di essere arrivati ad avere ancora quattro manie, quindi quattro manie al giorno senza riuscire ad eliminarne neanche una, anzi alla aumentano fine, sì, quindi aumentano esponenzialmente, e quindi c'è bisogno proprio dello spiazzo per riuscire a parcheggiare tutte quelle che sono le manie descritte da Frey. Ma questo testo, come ti è riuscito? Cosa stavi facendo in particolare per venire fuori decifrare tutte quelle che sono le tue manie? Allora, questo testo l'ho scritto proprio a ridosso dello studio. Ma la maggior parte delle canzoni, cioè, del disco fondamentalmente è nato in una settimana a fine agosto. Tornato dalla tournée, momento di vacanza, in casa non c'era nessuno. Hai cominciato a scrivere. E ero da solo, non c'era, era la pace più totale. E ho cominciato a scrivere, a finire quelli che non erano finiti e a scrivere alcuni di sana pianta, tra cui appunto le mie manie. E è stato, dai, uno di quei pezzi che vengono così, proprio in mezza giornata. E dal vivo con quattro persone, come lo fai un pezzo che secondo me è molto accattivante, molto forte, molto trascinante, possiamo dire questo? Sì, dal vivo viene molto, molto meglio. Poi è la voce graffiante, te graffi, sì, al di là del testo, sì, che è graffiante lo stesso, spiazza, possiamo dire questo. Sì. Dal vivo viene praticamente il live che facciamo ora è praticamente uguale al disco. Ah, ho capito. E poi c'è sempre l'inserimento di fiati, non di strumenti musicali, ma in questo caso di fischi. Sì. Il fischio che non c'è solo in questa canzone, l'abbiamo sentito anche in un'altra canzone, che forse porta un po' di spensieratezza, anche, esatto, se in questo caso la canzone non è un essere spensierato, quello che... No, è un po' un modo di dire me ne frego. Cioè, le mie manie le ho, me le tengo, in qualche modo inconsciamente le coltivo addirittura. Sì, le accudisco. Sì, esatto. Certo. E alcune mi costano, perché alla fine ti costa caro ogni volta a sbagliare, comprare una roba che costa poco, che poi ti si rompe e la devi ricomprare con la cosa peggiore ancora, che hai sbagliato qualcosa, chiaro. Quindi ti ha in qualche modo penalizzato. E nonostante ciò, appunto, il fischiettare, il fischio che intervalla insomma le strofe, è proprio un modo di dire comunque me ne frego. Questo sono, questo è, te qua. Ne freghi. Però nei concorsi che avevi fatto, che hai fatto infatti più di uno, ti sei sempre piazzato molto bene. Sì, tu hai detto anche una frase molto bella: non importa, ma sono andato sempre in finale. Sì, per me è stato importantissimo, perché comunque arrivare in finale in concorso è la cosa più importante. Concorsi poi... importanti, Premio Bindi, per esempio, sì, Musicultura, eccetera. Anche perché sono comunque selezioni, cioè se alla fine non vinci, siete comunque in 4-5 in finale. Ti fai vedere, 8. Ti fai sentire, esatto. Arrivare in finale vuol dire invece essere selezionati su 600-700 persone, quindi per me era fondamentale arrivare in finale più che vincere. Certo, certo. Alla De Coubertin praticamente. Sì. Parlando della musica che ascolta... Non so cosa vuol dire, però... Vabbè, vabbè, dopo ci documenteremo tutti sulla battuta di Maurizio. Allora, parlando un po' della musica che ti ha un po' forgiato, ci avevi dato alcuni artisti la volta precedente. Vorremmo capire se sono sempre gli stessi oppure se hai qualcosa di nuovo che hai scoperto in questo frangente. Allora, questa volta le canzoni le ho scritte molto di molto di getto, molto istintivamente, quindi ho seguito un po' quelle che erano le mie paure, nel senso che quando ho fatto l'altro disco ho scritto delle canzoni cercando di pensarci bene a quello che scrivevo, cercando di pensare a cosa scrivere prima di scriverlo. Invece questa volta ho affrontato un po' le mie paure, che erano quelle appunto di sbagliare, di fare delle cose che magari potevano assomigliare ad altre, di fare delle cose che magari non erano troppo, che ne so, che potessero funzionare o meno. Questa volta ho proprio scritto per gusto di scrivere, soprattutto nelle melodie, ma anche nei testi. E quindi non ho fatto riferimento, cioè non è che mi sono ascoltato dei dischi e poi ho iniziato a scrivere cercando di attingere da quello che mi piaceva. E Dario Giovannini che ruolo ha in questo scrive i testi? Nei testi? No, nell'insieme praticamente. Ma Dario ha un ruolo fondamentale, che è quello dell'arrangiatore, quindi io quando arrivo da Dario ho i brani che sono finiti, testo e melodia. Cioè ti può fare qualche variazione Dario, secondo lui può... portare una via che forse tu non avevi deciso di fare. Sì, sì, assolutamente. Più che altro di ritmica, di andazzo del pezzo, anche perché io portando la chitarra e voce non è che c'ha troppe cose decise o imprescindibili. Anzi, lo porto a chitarra e voce proprio perché voglio che abbia il campo libero per poter fare le cose che più gli piacciono e di conseguenza sicuramente gli vengono meglio. Il ruolo fondamentale di Dare è appunto quello di prendere mano delle canzoni e farle appunto farle suonare con la C maiuscola, farle suonare, esatto. Benissimo, allora ci ascoltiamo ancora un pezzo tratto dall'ultimo lavoro di Frey, che ricordiamo si intitola 2013 Odissea nello spiazzo, e il titolo mi fa sempre un po' sorridere perché dico prima o poi dirò spazio invece di spiazzo. Sì, l'hanno fatto alcune riviste, hanno scritto proprio il titolo spazio. Ecco qua, allora ci ascoltiamo questa volta Un minuto, un anno luce, eccolo qua all'interno di Blue Time Live. E le stelle sono mille milioni, i tuoi occhi due soli, ma così grandi io non li ho visti mai. Ci sono troppe stelle per due occhi miei. E la notte mi guarda dall'alto con occhi infiniti, li provo a contare, ma poi mi perdo per troppa libertà. Ma dove sei stanotte? Chi lo sa? Quando guardo su per un attimo io resto senza parole. E tu perdonami se poi me ne approfitto e trovo un senso a tutto quello che è successo per non voler buttare tutto via. E mi rinchiudo in casa mia a scrivere una canzone. E non pensare mai che mi spaventi la paura, che questo amore non sia della mia misura, anche se un giorno non ti ho voluta mia. E quando sembra che vado via, aspettami, per favore, ritornerò da te. Tutta un'intera galassia che gira, che scoppia. Di fronte a questo non ho viaggiato mai. In altri mondi poi mi perderei. Però guardarti vicino mi sembri lontano. Ridammi la mano, se no ti perdo tra tante gravità. La notte no, non ci abbandonerà. Quando guardo su per un attimo, io resto senza parole. E tu perdonami se poi me ne approfitto e trovo un senso a tutto quello che è successo per non voler buttare tutto via. E mi rinchiudo in casa mia a scrivere questa canzone. Pensare mai che mi spaventi la paura, che questo amore non sia della mia misura, anche se un giorno non ti ho voluta mia. E quando sembra che vado via, aspettami, per favore, ritornerò da te. Che abbiamo ascoltato dal CD di Frey intitolato 2013 Odissea nello spiazzo, si intitola Un minuto, un anno luce, un grande pezzo cantautorale questo di Frey, dove in un minuto, appunto in un anno luce, a seconda di quella che è lo spazio-tempo che si vuole identificare, c'è tutto, c'è la voglia di vedere negli occhi la persona che ti è vicino e scoprire che ci sono delle galassie inesplorate che sicuramente valgono di più che non un giro su Marte, no? In questo caso qua, nel quadro, diciamo, dell'universo, di questa odissea spiegata in tutti i pezzi da Frey, c'è anche questa volontà di dire: ma perché andiamo tanto in là? Guardiamoci negli occhi e cerchiamo di comprendere le nostre emozioni. E le nostre galassie. E le nostre galassie. Che abbiamo dentro. Assolutamente sì. Che sono anche quelle tanto inesplorate quanto quelle che vediamo lassù. Sì, molte volte cerchiamo le cose lontane e dimentichiamo quelli che sono invece i valori veri e propri delle nostre emozioni e delle nostre comunicazione con gli altri. Sì, soprattutto appunto delle altre persone, che sono appunto l'universo più interessante da esplorare. Poi, perché questi giorni leggevo sul giornale che c'è un'azienda olandese che sta progettando dei viaggi su Marte, senza ritorno, cioè cerca degli astronauti disposti ad andare su Marte, fare una colonia, ma l'unico inconveniente è che questi qua che vanno poi non possono tornare. E c'è il costo di 3 miliardi di euro, mi sembra, il tutto. Sì. E hanno intenzione di costruire appunto queste cabine. Io non so cosa ci vadano a fare su Marte, a passare il resto della loro vita dentro delle capsule. No, è abbastanza assurdo come sì, effettivamente sì, o hai doti di ergastolano o questo non riuscirai mai, mai a farlo. Comunque vediamo, perché poi sappiamo che la mente umana molte volte si sposa anche a questi tipi di ragionamenti della serie voglio essere il primo a fare, queste cose qua. Esatto. Ecco, perfetto. Benissimo, quindi andare su Marte. Una cosa che volevo dire di questa canzone qui, Un minuto non alla luce, che è sempre legata appunto, sì, può parlare di diverse cose questa canzone, oltre che magari di due persone. E quando l'ho scritta mi faceva venire in mente anche quando hanno mandato quella piccola cagnetta sullo spazio, Laika. Sì, Laika. Negli anni 60, anni 50, sì, non mi ricordo. Fine anni 50, inizio anni 60. Esatto. Senza ovviamente chiedergli se ci voleva andare. E quindi spesso quando suoniamo dal vivo appunto questa canzone viene introdotta dedicandola appunto a Laika, e immaginando che chi la canta o chi la scrive appunto è quel piccolo scienziato che l'ha mandata su, poi si è pentito e sta cercando disperatamente di costruire un'astronave per andarla a riprendere a un minuto, un anno luce da qui. Certo. E giustamente Flavio metteva in evidenza che tu in questo pezzo hai fatto veramente il cantautore, penso l'unico pezzo in cui veramente fai il cantautore, cioè sì. È uno stile proprio cantautorale al 100%. Sì. Gli altri no, gli altri sei un cantautore atipico, vero Flavio? Assolutamente. Sì, in un certo qua senso no, anche rocker, se vogliamo. Anche rocker, invece qua c'è proprio quella ballata dei sentimenti, si sente proprio da vicino questo pezzo. Un minuto, un anno luce, si intitolava. Allora, proseguiamo con l'ascolto del CD, con un altro pezzo davvero, davvero particolare, si intitola Se, solo se, qui all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, Blu Time Live, assieme a Frey, assieme a 2013, Odissea nello spiazzo. Se solo se fosse possibile capire, io capire vorrei ogni distanza interstellare. Se fossi il re seduto in cima a queste scale, io gradirei che mi rapisse un'astronave. Dalla mia mediocre. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato un'altra canzone di Frey dall'album 2013 Odissea nello spiazzo, il suo ultimissimo lavoro. Abbiamo ascoltato questo Se, solo se, con un ritmo in levare reggae molto, come dire, particolare nel suo genere, anche molto raffinato e anche in alcuni tratti molto rarefatto, questo ritmo reggae che parla di una storia, di una persona, appunto il personaggio di Frey in questo caso, questa volta seduto sulle scale, sull'estremità, proprio sempre nell'intento di guardare verso l'infinito, verso mondi sconosciuti, e in questo caso il voler anche diventare un astrofisico nucleare, una parola difficile, ma per dire un qualcosa di grosso, di onnipotente, sì. Soprattutto quando si parla di Odissea nello spazio, invece Odissea nello spiazzo porta già a un po' a una figura, diciamo, comune, a un sognatore in questo caso. Sì, questa è una canzone che parla un po' della nostra, o comunque in questo caso della mia mediocrità nel senso che io prima ho parlato di questi olandesi che stanno cercando di fare questa impresa abbastanza su Marte, sì. Ma in realtà non nego che anch'io in certi momenti potresti andare su Marte anche te, no, cioè alla fine però in certi momenti della mia vita comunque cado nella trappola di voler vivere qualcosa di molto più grande di me, capito. Quando poi magari non c'è assolutamente bisogno. Quelle trappole di cui si parlava nel tuo precedente disco, le trappole, no? Della volpe, sulle tracce della, esatto, volpe. Ecco, quindi allora abbiamo ascoltato questi pezzi che vanno verso l'infinito, ma che poi tornano da noi, perché naturalmente i grandi sognatori, come sono ancora i cantanti in questo caso, gli artisti, sognano lo spazio, ma gli basta molto meno, diciamo, per sognare e per costruire, diciamo, la canzone, la propria esistenza in musica. Allora, noi ringraziamo Frey per essere stato con noi, ancora ospite per questo nuovo lavoro, ancora i complimenti gli vanno rivolti. 2013 Odissea nello spiazzo, ricordiamolo ancora una volta, per saperne ancora qualcosa di più di Frey, delle sue esperienze musicali, basta guardare il suo sito internet www.freyfreyfrey.com e quindi cliccare nelle varie argomentazioni che ci offre appunto questo sito. Allora noi auguriamo un felice ritorno nella sua amatissima terra di Romagna, quindi noi ti strappiamo ancora un appuntamento come abbiamo fatto le altre volte, appena un altro disco fresco e nuovo come questo mandacelo subito e programmiamo immediatamente un'altra diretta in radio. Prima di lasciarci, Frey, un'ultima, come dire, parola riguardo a quello che è il pezzo che andremo ad ascoltare nel finale di trasmissione, quindi la notte che serve per meditare, che serve per diciamo finire la giornata con che cosa, di cosa parla la canzone, Frey? Allora, la canzone parla della notte, di quello che si vive, di quello che ho vissuto appunto durante una notte, la volta appunto che l'ho scritta. È l'unica canzone, come era successo anche nell'altro disco, è l'unica canzone che non è stata scritta quest'anno, ma è praticamente la prima canzone che ho scritto. È una canzone che ho scritto quando avevo 18 anni, 19 anni, nel 2000. E l'ho ritirata fuori, l'ho voluta mettere in questo disco per l'arrangiamento che ci ha fatto Dario, perché io ho lavorato per un altro progetto ci ha fatto quell'arrangiamento e è venuta fuori una canzone ottima. Ottima, sì, mi è piaciuta moltissimo, quindi l'ho inserita in questo disco e poi comunque era abbastanza inerente all'Odissea nello spiazzo. Certo, certo. Diciamo che chiudeva, cioè il disco inizia appunto con 2013 in un tramonto. Esattamente. Nello spiazzo di casa, finisce poi la notte. Di notte, sì. Chiaramente. Benissimo, allora ci ascoltiamo. Prima passiamo ai saluti, così per lasciare i microfoni aperti a Frey e a questa sua ultima canzone, La Notte per l'appunto. Quindi ancora grazie, un buon rientro Frey. Noi salutiamo quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Un saluto grande e caloroso ciao. Vi lasciamo dopo la canzone di Frey assieme a Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco e anche la sua classifica. Quindi grazie ancora. E questa è La Notte, lui è Frey e ricordiamo ancora una volta il titolo del suo nuovo lavoro che si intitola 2013, Odissea nello spiazzo. È notte e scende piano la rugiada e ricama lentamente chilometri di pizzo sulla strada. Le nuvole sono le mani delle nonne che si muovono sicure lentamente, poi le stelle, tante stelle, troppe stelle, si confondono con le luci più lontane, si distinguono dalle luci più vicine, che vibrano come vibra il cuore dei gatti neri impauriti che si perdono nel buio dei vicoli ciechi. Puoi vederli baciarsi nel chiaro di luna, io credo portino fortuna. Strada la sento parlare e riesco a distinguere qualche parola di partite già vinte e di altre ancora già perse in partenza, chiacchiere, risa, discorsi e lamenti di chi ha fatto la spesa, un insulto e un problema da risolvere fuori dalla porta di un bar. Poi il rumore di bottiglie rotte, le botte che danno sbattendo le porte, quelle ci sono sempre e ogni tanto una nota stonata di clacson che non c'entra niente, ma va bene così. È ancora notte, il sonno se n'è andato con il giorno. Un brivido di freddo mi attraversa, se ci fosse qui mia mamma chiuderebbe la finestra, ma io voglio vedere, sognare, capire se la notte è difficile da attraversare, se da questa finestra posso andare lontano, se la gente è capace di darmi una mano. O la solita birra, se è più forte il rumore di un treno, dove vanno i colori dell'arcobaleno, dove scappa le lucciole quando viene mattino tra l'odore di caffè. Ah, sei bella notte solitaria, cara dolce compagna di storie, di pianti, di canzoni cantate, di sbronze, di amanti e del tempo perduto a dormire, a pensare. E tu luna che il giorno ti perdi, ora sei ferma in posa a lasciarti guardare sulla porta di casa, e non voglio entrare, resto inchiodato lì. So che quella luce non è tua, ma va bene lo stesso. sei bella così. Sei bella così.